Cosa avrò fatto mai? Cosa avrò fatto mai per meritare il cielo uguale? Cosa avrò fatto mai? Cosa avrò fatto mai?